I fan di William Gibson lo sanno già, gli estimatori del cyberpunk si sono già precipitati a comprarlo, lo dico quindi soltanto per quelli a cui fosse, quei pochi a cui fosse sfuggito, è uscito il terzo romanzo di William Gibson della sua serie cyberpunk, diciamo, e il appunto titolo italiano è proprio Mona Lisa Cyberpunk, il Mona Lisa Overdrive dell'originale è stato tradotto così probabilmente per sfruttare questa sigla, la sigla di questo movimento di cui tutti nei convegni sparlano e fanno finta di prendere le appunto distanze, però poi in realtà lo mettono sulla copertina dei libri pensando forse di vendere di più. Il signor Gibson ci occhieggia dalla copertina posteriore, dalla quarta di copertina del libro, in una foto direi un po' vecchiotta. E che cosa si deve dire di questo libro? Certo, a chi non ha letto i primi due, cioè Neuromante e Giù nel ciberspazio, orrendo titolo per l'originale Count Zero, il primo edito dalla Nord e il secondo da Mondadori, forse avrà qualche piccolo problema durante questo libro, perché in effetti questo Mona Lisa riprende i temi dei primi due, li fonde insieme e chiude, direi, in maniera mirabile questo ciclo. Però direi non molto in fondo, si può leggere anche questo, si può anche cominciare, chi ancora non avesse letto Gibson e fosse incuriosito da questo autore di cui tanto si parla, potrebbe benissimo, volendo, anche cominciare da questo per poi magari rileggersi i primi due. Certo, sarebbe meglio da un punto di vista filologico leggerseli, per così dire, nell'ordine, insomma, però. Il valore del libro, beh, direi dopo aver chiuso sull'ultima pagina di questo libro si capisce chiaramente come questi tre romanzi formino in realtà una trilogia inestricabile, in cui è effettivamente difficile dire quale è più bello, quale è meno bello. Certamente Neuromante aveva dalla sua la forza dell'impatto, la prima volta che certe tematiche venivano messe in campo, che un certo mondo veniva rappresentato. Mona Lisa direi che probabilmente però forse è il più equilibrato dei tre, è quello in cui certe cose vengono fuori anche in modo più chiaro. L'ambiente cyberpunk, non so se devo spendere parole per spiegarlo, comunque è questa specie di futuro abbastanza prossimo. L'anno di cyberpunk è l'anno di, scusate, di Neuromante è pochi anni dopo il 2000. Questo romanzo Mona Lisa si svolge 14 anni dopo, ci viene detto nel corso del libro, gli eventi di Neuromante, Giù nel ciberspazio, che era il secondo romanzo, quello in mezzo, pochi anni dopo Neuromante, ma questo è molto più collegato a, diciamo, Neuromante di quanto non sia il secondo. Ed è un mondo nel quale domina la tecnologia, dominano le corporazioni industriali, soprattutto giapponesi, le Zaibatsu, e qui vediamo in questo terzo libro domina anche la Yakuza, cioè la mafia giapponese, che ha degli intrighi e degli intrecci in tutto il mondo. E l'elettronica ha creato questa sorta di mondo parallelo che ormai è legato inestricabilmente con il nostro mondo reale, questo ciberspazio e qualcosa di più del ciberspazio, ci accorgiamo in realtà leggendo Mona Lisa, nel quale questi trasgressori, questi fuorilegge, questi cowboy del ciberspazio, questi fantini della console, come vengono chiamati, scorrazzano in lungo e in largo a piacimento. FBI and Scotland Yard in Interpol and Deutsche Bank. FBI and Scotland Yard. Time. Il modello grosso modo è lo stesso di Count Zero, cioè di Giù nel ciberspazio, mentre lì c'erano tre storie parallele che scorrevano parallele e poi si riunivano tutte e tre alla fine, qua sono quattro le storie, quattro i filoni e i personaggi principali, il che ci fa capire, direi, d'altra parte, che William Gibson ha, per quanto tutto sommato lo neghi nelle interviste, almeno da questo punto di vista, ha assimilato molto bene la lezione di Philip Dick, che è un maestro in questi, diciamo, romanzi a trama multipla, in cui poi tutto alla fine si confonde. Il titolo, Mona Lisa. Mona Lisa è il personaggio che esce poi tutto sommato meglio alla fine da questo, diciamo, romanzo. È una specie di prostituta sedicenne cresciuta a Cleveland in condizioni disastrose, non sa chi siano suo padre, sua madre, eccetera, e viene improvvisamente sbalzata all'interno di una stranissima avventura che non controlla per tutto il libro, di cui non riesce a capire il senso, fino a che alla fine, mano a mano, così le appare un po' più chiaro. Lei non ha contatti con la tecnologia, insomma, rappresenta proprio uno sguardo, sì, diciamo pure ingenuo, per certi versi puro, nonostante il mestiere che fa, naturalmente, e almeno questo è quello che ci dice, insomma, Gibson. Per che cosa viene reclutata? Per una cosa che non vi dirò, per non togliervi il piacere del libro, ma che è connessa con Angie Mitchell. Questo è il secondo filone secondo filone narrativo del libro. Angie Mitchell è la ragazzina che già compariva in giù nel, insomma, ciberspazio. Era la ragazzina, la figlia dell'ingegnere dei biochips, delle biotecnologie, della Musk, che veniva rapito, eccetera, eccetera. E alla fine del libro, alla fine di giù nel ciberspazio, diventava una diva del SimSteam, cioè di questa sorta di olografie, di televisione olografica che sono i grandi media di intrattenimento dell'epoca di Neuromante. Questo è il secondo filone. Nel terzo filone troviamo una vecchia conoscenza, che è la Molly di Neuromante, cioè la street samurai, la signorina con gli occhi sostituiti da degli occhiali a specchio impiantati. E poi compaiono due nuove serie di personaggi, invece una deliziosa bambina giapponese, ragazzina di 12 anni, Kumiko, la figlia del capo della Yakuza, che viene trasportata a Londra e da lì vive una serie di avventure incredibili, e poi lo stesso Count Zero, cioè il vecchio Bobby Newmark, il Conte Zero di giù nel ciberspazio, che per tutto il libro se ne sta sdraiato su di una console, collegato in qualche modo con una specie di mondo elettronico tutto suo particolare. E poi ci sono straordinarie figure di artisti, di persone che operano con i rifiuti, gli scarti della civiltà industriale, costruiscono bellissime macchine semoventi, dei robot, tipo quelli che fanno nella, diciamo, realtà, per esempio, gente come Mark Pollin e quelli del Survival Laboratory della California, amici di Gibson, anche loro naturalmente. Quindi ci sono tutta una serie di echi del mondo reale e di quello che ancora non è, diciamo, reale, ma che può facilmente diventare realtà, fino a che, con una maestria veramente degna di nota, Gibson annoda tutti questi nodi sparsi che ha tracciato per tutto il libro, mette per così dire l'ordito insieme con la trama, e alla fine abbiamo uno dei suoi giganteschi pirotecnici finali con tutte le rivelazioni al punto giusto, con tutte le cose nuove, e quello che ci rimane in bocca è soprattutto questo senso un po' di inutilità, di difficoltà della vita, ma anche in qualche modo una sorta di amore che viene appunto in gran parte proiettato in questo personaggio di Mona Lisa, veramente straordinario in questa sua capacità di testimoniare la bellezza e la cattiveria di questo mondo immaginato, di questo agglomerato che si estende da New York ad Atlanta senza soluzione di continuità, ma che naturalmente assomiglia tantissimo al nostro mondo. Quindi, che fare? Se conoscevate già Gibson, dovete assolutamente leggere Mona Lisa Cyberpunk. Se non lo conoscevate, può essere questo il libro da cui accostarvi a uno scrittore straordinario che è andato ben oltre i confini ristretti di un genere fantascientifico e che va messo sicuramente accanto a Dick, accanto a William Burroughs, accanto a James Ballard, accanto ai grandi scrittori fantastici della nostra epoca. Tradotto, mi sembra, abbastanza correttamente e certe volte anche con qualche soluzione elegante da Marco Pensante, Mona Lisa Cyberpunk è edito da Mondadori, si estende per ben 252 pagine e costa 18.000 lire. Io vi lascio, a risentirci il prossimo lunedì.